Immaginate il rumore dei passi sulla sabbia dello stadio di Olimpia, il respiro trattenuto prima della gara, lo sguardo fisso verso il traguardo. Per un attimo chiudete gli occhi. Ora riapriteli. Forse riuscirete a vederci. Siamo studenti del ginnasio Antonio Canova di Treviso, che in questo podcast originale hanno deciso di mettersi nei panni degli antichi atleti per raccontarvi storie accadute molti secoli fa, in una località della Grecia che ha cambiato la storia dello sport. Mentre oggi il mondo si prepara alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, tra piste di ghiaccio, sci, cronometri digitali e tecnologia avanzata, noi faremo un salto indietro nel tempo, verso un'epoca in cui tutto questo non esisteva, ma in cui nacque lo spirito dei Giochi Olimpici. Ma che cos'erano davvero le Olimpiadi? Erano competizioni panelleniche che si svolgevano ogni 4 anni a Olimpia, nel celebre santuario di Zeus. Comprendevano un sistema di gare che univa città spesso nemiche sotto un'unica identità culturale, fondata su valori condivisi. Gli atleti gareggiavano per una semplice corona di olivo sotto il cielo luminoso della Grecia. Li animava lo spirito agonistico, parola che deriva dal greco agon e che indica il confronto leale, il desiderio di superare se stessi davanti agli dèi e alla comunità. Per i greci, fin dai giochi narrati nell'Iliade in onore di Patroclo, gareggiare significava affermare chi si era, come individui e come popolo. Tanto forte era questo ideale che durante i giochi le guerre venivano sospese grazie alla tregua sacra. E viene spontaneo pensarlo, magari fosse così anche oggi. Ora preparatevi a entrare nello stadio di Olimpia, dove ogni gara era memoria, identità e pace. Che i giochi abbiano inizio. Mi chiamo Cinegiro, sono di Tebe e nell'80esima Olimpiade il mio nome fu inciso nel marmo per aver dominato la polvere della gara dello stadio. Ma non ascoltate in me l'eco di un vecchio trofeo. Ascoltate il battito di un ritmo che non conosce tramonto. Un tempo correvo per un ramo d'ulivo e per la gloria della mia stirpe. Oggi percorro i sentieri del mondo perché ho compreso che l'agone non è una sfida contro l'altro, ma una danza sacra con l'Eterno. Ho visto il sudore farsi rugiada e lo sforzo farsi preghiera. Mi sono fatto pellegrino tra le genti affinché la fiamma che accese i miei muscoli nel 456 a.C. non diventi mai cenere nei vostri cuori. Chiudete gli occhi, sentite il fragore delle arene, il respiro sospeso di un'umanità che si ritrova divina nel momento del balzo. Benvenuti dove il tempo si ferma e il mito ricomincia. Queste sono le Olimpiadi. I giochi panellenici non erano un singolo evento, ma un ciclo di 4 grandi competizioni che scandivano la vita del mondo greco. Tenuti in onore di diverse divinità, rappresentavano il palcoscenico più prestigioso per dimostrare l'eccellenza, arete, e ottenere la gloria eterna, kleos. Ogni vittoria era un onore non solo per l'atleta, ma per la sua intera città-stato. Celebrati in onore di Zeus, i Giochi Olimpici, Olimpia, furono i più importanti per solennità e magnificenza. Fondati storicamente nel 776 a.C., le loro origini affondano nel mito, legandosi a eroi come Pelope e Eracle. Mito di Pelope. La sua vittoria nella corsa dei cocchi contro Enomao, ottenuta con l'astuzia, fonda il carattere agonistico funerario dei Giochi. Questa è la più antica leggenda eziologica. Mito di Eracle. Si dice che abbia istituito i giochi dopo la sua vittoria su Augia, o che li abbia riorganizzati regolarmente ogni 4 anni, dedicandoli al padre Zeus. Durata storica. I giochi si tennero ininterrottamente per oltre 11 secoli, fino all'abolizione decretata da Teodosio I nel 394 d.C. Non tutti potevano competere. L'accesso agli agoni era riservato ai cittadini greci di stirpe pura, maschi e liberi. Gli schiavi e i barbari erano esclusi. La tregua sacra. Durante i giochi veniva proclamata una tregua che garantiva agli atleti e agli spettatori un passaggio sicuro verso e da Olimpia, sospendendo ogni conflitto. Il giuramento solenne. Prima delle gare, gli atleti e i loro allenatori giuravano davanti alla statua di Zeus Orchios. Si impegnavano a non commettere alcuna scorrettezza e a gareggiare lealmente. Giuravano inoltre di essersi allenati per almeno 10 mesi. L'organizzazione e la supervisione dei giochi erano affidate agli ellanodici, i giudici di gara. Erano cittadini elei che venivano selezionati e si preparavano per 10 mesi. Il loro compito era sacro e la loro autorità assoluta. Responsabilità: ammettere atleti e cavalli, sorvegliare gli allenamenti, far rispettare le regole, proclamare i vincitori e imporre sanzioni. Imparzialità: nonostante fossero elei, godevano di grande stima e la loro integrità era considerata al di sopra di ogni sospetto. Assicuravano che solo i concorrenti di stirpe greca potessero partecipare. La prova primordiale, le gare di corsa. La corsa fu il primo e per secoli l'unico agone olimpico, rimanendo sempre la gara più prestigiosa. La lunghezza della pista, lo stadio, divenne l'unità di misura per le altre corse. Stadion, la gara di velocità su un singolo stadio, circa 185 metri. L'evento più antico, introdotto nel 776 a.C. Il primo vincitore noto fu Corebo di Elide. Diaulos, corsa su due stadi, circa 370 metri, introdotta nel 724 a.C. Dolicos, corsa di fondo su una distanza variabile, da 7 a 24 stadi, introdotta nel 720 a.C. L'arte del combattimento, pugilato, lotta e pancrazio. Forza, tecnica e resistenza erano celebrate negli sport di combattimento, discipline violente ma regolate. Il pugilato, in greco e pugmè. Gli atleti si proteggevano le mani con cinghie di cuoio, i mantes. Il combattimento era estremamente violento e poteva terminare per KO o resa. Lotta, in greco e pale. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Era una prova di forza e abilità tecnica, senza colpi. Gli atleti combattevano nudi e cosparsi d'olio. Il pancrazio, in greco pankration, introdotto nel 648 a.C., era un combattimento misto di pugilato e lotta, quasi senza regole, considerato il più brutale. Solo mordere e cavare gli occhi era proibito. Introdotto nel 708 a.C., il pentathlon, era la gara per l'atleta più versatile, che doveva eccellere in 5 discipline diverse, dimostrando un equilibrio perfetto tra forza e agilità. Salto in lungo, alma, eseguito con l'uso di pesi per bilanciare il corpo. Lancio del disco, discos, una prova di forza e tecnica. Corsa a piedi, dromos, probabilmente una gara di stadion. Lancio del giavellotto, acontion, mirava alla massima distanza, lotta, pale, la prova finale per determinare il vincitore tra i finalisti. Le corse ippiche erano gli eventi più spettacolari e pericolosi, riservati ai più ricchi. La vittoria non andava all'auriga, ma al proprietario dei cavalli, permettendo anche a nobili e politici, come Alcibiade, di ottenere la gloria olimpica. Tetrippo, to, tethrippon. La corsa con la quadriga, carra a quattro cavalli, introdotta nel 680 a.C. Era la gara più importante e prestigiosa. Keles, o Keles, la corsa con cavalli montati, introdotta nel 648 a.C. Il percorso si svolgeva nell'ippodromo. Il punto più pericoloso era la virata attorno alla meta, sprone, dove avvenivano numerosi incidenti. Al termine della gara, l'araldo, Ceryx, proclamava ad alta voce il nome del vincitore, del padre e della sua città di provenienza. Il premio immediato non era materiale, ma un simbolo di gloria e imperitura. La corona. Il vincitore veniva incoronato con una semplice ghirlanda fatta con rami sacri. Olimpia, olivo selvatico tagliato da un albero sacro dietro il tempio di Zeus. Delfi, alloro. Istmia, pino. Nemea, sedano. Il momento della premiazione. La cerimonia si svolgeva l'ultimo giorno dei giochi, davanti a tutti gli spettatori. L'incoronazione rappresentava il culmine della gloria, un onore divino concesso ad un mortale. Il ritorno del vincitore, da atleta a eroe. La vera ricompensa della vittoria si manifestava al ritorno in patria. I vincitori olimpici erano accolti come eroi e ricevevano onori straordinari dalla loro città-stato. Onori pubblici. Entravano in città su un carro trionfale, a volte abbattendo una parte delle mura, per simboleggiare che una città con tali uomini non aveva bisogno di difese. Ricompense materiali. Ricevevano premi in denaro, ad Atene fino a 500 dracme, il diritto di mangiare a spese pubbliche nel Pritaneo per tutta la vita e posti d'onore a teatro. Gloria poetica. Poeti come Pindaro componevano i pinici, odi di vittoria, per celebrare le loro imprese, assicurando loro una fama immortale. I giochi panellenici erano una sintesi perfetta dei valori della civiltà greca. Erano un momento di unità religiosa e culturale che trascendeva le continue guerre tra le polis. Arena politica. I giochi erano un'occasione per ambascerie, teoriai, alleanze politiche e ostentazione di ricchezza e potere. Festival culturale. Artisti, poeti e oratori si riunivano per esibirsi e farsi conoscere, trasformando l'evento in un grande festival panellenico. Identità ellenica. I giochi rafforzavano un'identità comune, unendo i greci attraverso una lingua, una religione e un ideale di eccellenza condivisi. Erano l'apoteosi dell'uomo greco. Il lessico dell'Agon, una selezione di termini greci fondamentali per comprendere il mondo dei giochi. Concetti generali. Agon, la gara. Athlon, il premio. I ruoli. Athletes, l'atleta. Elenodikes, il giudice. Gymnastes, l'allenatore. Discipline di corsa. Stadion, lo stadio. Diaulos, il diaulo. Dolicos, il dolico. Discipline di combattimento. Pale, la lotta. Pygmè, il pugilato. Pancration, il pancrazio. Altre discipline. Pentathlon, il pentathlon. Discobolos, il discobolo. Alma, il salto. Tetripon, la quadriga. L'ideale duraturo, la ricerca dell'eccellenza. I giochi panellenici non furono semplicemente una competizione atletica, furono la più alta e spettacolare celebrazione dell'ideale greco di Arete, l'eccellenza raggiunta attraverso la fatica, la disciplina e la lotta, Agon. Un modello di potenziale umano che, attraverso i secoli, non ha mai smesso di ispirare. Il mio tempo nell'arena è finito, ma il vostro è appena cominciato. Non dimenticate, la vittoria è un istante, ma la bellezza del gesto è un'eredità che non teme i secoli. Io, Cinegiro di Tebe, torno ora nell'ombra del portico, tra i marmi e il silenzio dei secoli, ma voi restate nella luce. Portate con voi la scintilla che abbiamo risvegliato oggi, perché ogni volta che superate il vostro limite, io corro ancora al vostro fianco. Andate ora. Siate veloci come il pensiero, forti come la quercia, ma soprattutto siate degni della vostra stessa gloria. La fiamma è vostra, custoditela.